questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a Radio Tube, un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo, anche il perdibile come al solito, della settimana tra TV, web TV, social TV, ma anche quello di cui parla il web, soprattutto quello di cui parlano i social, anche in questo weekend in cui, secondo me, molti sono in giro, qualcuno sarà in macchina, le gite, le gitarelle. Noi però siamo sempre qui, siamo qui il sabato e siamo qui la domenica con due puntate diverse, il sabato alle 18 e la domenica alle 15. Marta preferisce il sabato, io preferisco la domenica. Ma a me il sabato del villaggio è sempre... Tra un ponte e l'altro, sì, tutti ci possono scrivere ai nostri account di Twitter, Marta Cagnola, eppure anche di Bellasio. Ma soprattutto si può usare l'hashtag RadioTube e questa volta lo dico io, se volete risentirci potete andare sul sito www.radio24.it e c'è il podcast. Ma come sono orgogliosa. Bravissimo. Che te lo ricordi sempre. Ormai te lo ricordi sempre. Sì. Daniele, la scorsa settimana Marta, era Pasqua. Pasqua, 25 aprile, primo maggio. Io ho deciso di lavorare sempre quest'anno. Brava. Io vado in vacanza. Aumenta la produttività del paese. Ma soprattutto non ce la faccio più a sentir parlare di gente in vacanza. Io propongo, senti qua Daniele, dimmi se sei d'accordo, l'istituzione... Sì. Di un rito in tutte le scuole di giornalismo del regno. Ma questo è proprio un lancio pazzesco. Sì, perché questo video che stiamo per mostrarvi alla radio è una lezione di giornalismo imperdibile. Deve diventare virale nelle scuole di giornalismo del regno. Del regno, sì. Enrico Mentana nel TG della 7 ha deciso per quest'anno non cambiare. Eccolo qua. Anzi, cambia. Buonasera, la Pasquetta, le gite fuori porta... le città d'arte prese d'assalto, le code ai musei, l'Italia tagliata in due dal maltempo, il grande rientro dal ponte Pasquale, ecco, sono tutte le cose di cui non parliamo stasera, quindi se per caso siete interessati a tutti questi argomenti troverete senz'altro altri notiziari. A parte l'eleganza letteraria di usare la preterizione, perché un po' comunque li ha annunciati. Certo, perché lui ha fatto l'elenco di tutto quello che avreste potuto vedere. Sì. C'è chi mi ha scritto, io subito ho scritto, l'ho visto in ritardo, grande direttore, bravissimo, stupendo. C'è chi mi ha scritto, mio marito mi ha fatto cambiare canale. Perché voleva vedere perché proprio voleva vedere quelle cose lì. Ci prepariamo, degli separati. No, la famiglia prima di tutto, però ha ragione Enrico Mentana, ha ragione, anche perché poi dobbiamo prepararci all'estate in cui ci saranno i video, i servizi, dopo dovremmo dare il traffico, quella è informazione di servizio, ma i servizi del TG che stanno per arrivare con il bagno nelle fontane, il casello col microfono della povera ragazza mandata con 45 gradi all'ombra al casello di Carisio, città di Cruciani. L'immagine del termometro di Piazzale Loreto, fermo sui 40 gradi. Oppure tutti gli schermi della centrale operativa dell'ANAS con tutti gli svincoli. Basta. Lo sappiamo, gli italiani si muovono un po' in macchina, un po' in treno, li abbiamo visti. E pensa che siamo ancora a inizio stagione da questo punto di vista, perché c'è tutta l'estate, il bollino rosso, giallo, verde, blu. Ha ragione Mentana, diciamo basta. Mettiamo l'informazione di servizio dentro i servizi di informazione di servizio. Sono d'accordo. Solo che poi cosa fai ad agosto? Che non si sa. Pasqua. Peraltro Pasqua è una festa un po' strana, no? Sì, una festa. Allora, c'è questo video che mi hai mandato e io ho riso moltissimo. Ovviamente ha un'importanza religiosa per chi crede, importantissima. Però dal punto di vista della Pasquetta, almeno buttiamoci sulla Pasquetta. Beh, è una festa un po' strana perché, allora, è una festa che uno youtuber che si chiama Enrico0DX ha definito, la Pasqua non mi piace perché non è mainstream. Sì. Ma per quale ragione? Ma è bellissimo questo sì, video. Sì, perché lui è uno youtuber un po' particolare. Secondo me ci impiegherà un po' più dei The Pills, che sono addirittura arrivati su Rai 2, se non ho capito male. Sì. Che li hai scoperti come sempre tu, Marta, porta bene. Perché è un po' più smagato, un po' più vivo, svagato, volevo dire, non smagato, vive un po' sulle nuvole così, però ogni tanto dice delle sane verità. Le vogliamo vedere questa? Vogliamo vedere cosa dice della Pasqua? Vediamola. Eccolo qua, Enrico 0DX. Che schifo. Cosa? Che schifo la Pasqua. Non ti piacciono le uova? Non mi piace la Pasqua. Perché? È una festa sfigata. È pur sempre una festa. È così poco mainstream. Mainstream? Vuoi dire come il Natale? Il Natale è mainstream, la Pasqua no. Perché Ferragosto è mainstream? Che c'entra Ferragosto? È in mezzo alle vacanze estive. Le vacanze di Pasqua durano poco, te le riempiono di lezione. Io non l'ho mai fatto. E tutto quel cioccolato. Il cioccolato è il cioccolato. Fondente o al latte? Al latte. Al latte, certo. Quanti anni hai? Che ne so, non si chiede l'età a una signora. Comunque a me piace pralinato. Per non parlare delle sorprese. A tutti piacciono le sorprese. Mi spieghi come cavolo fanno a inserire un peluche in un uovo di Pasqua senza romperlo? Io so che questo video ha anche una conclusione molto carina, però siccome il video è un po' lungo, ti faccio una proposta, Daniele. Sì, una proposta. Lo diciamo domani come va a finire il video. Ah, facciamo una puntata. Dai, domani spieghiamo come va a finire la Pasqua mainstream. Sì, comunque non è vero, mainstream. Il Natale è mainstream, la Pasqua... La Pasqua molto meno. Molto meno. Devo dire, che al di là appunto dei valori religiosi, questa Pasqua secondo me è stata molto ben raccontata da Enrico 0DX, del quale domani... Poi a posto delle domande serissime. Quella dell'uovo di dell'uovo, cioccolato. Dell'uovo, come sì, si fa a inserire? Sì. Hai ragione. Sono quelle cose che anche a me mettono un po' di inquietudine. Parleremo tra poco di un sacco di tendenze della rete e anche in questi giorni la tendenza della rete è stata quella delle liti tra VIP. Sì, tra i VIP, tra i personaggi della televisione. Hanno litigato su Twitter Fiorello e Bruno Vespa. Tu già la scorsa settimana avevi detto, parlando dei calciatori, dovrebbero esserci le squadre che levano il telefonino ai... Ma io questa volta ho trovato la battuta di Fiorello, devo essere sincero, un po' infelice, un po' tanto infelice. Cioè, beh, paragonare insomma, comunque. Sì, togliere una puntata di Porta a Porta la settimana per Vespa. Però anche Vespa poi ha fatto ironia sull'incidente di Fiorello. Sì, comunque insomma, bisogna stare attenti perché insomma, Twitter è pubblico, ragazzi, è pubblico, ci si sta comportando in pubblico, quindi bisognerebbe intanto comportarsi bene anche nel privato. Uh-huh. Però in pubblico, attenzione a quello che si dice. Ah, botte risposta, hanno fatto subito pace. Hanno poi Fiorello pace. È stato bravo pace, a dire sì. Love, love, love. È lo Lollo. Spirito natalizio. Lollo, Vespa, io ti lovo. Lovo, esatto. Io ti lovo tanto. Cuoricini, cuoricini. Radio Tube. Rieccoci dopo le informazioni sul traffico che sono sempre molto utili per chi viaggia. Noi abbiamo preso in giro i telegiornali che parlano sempre di Pasqua. Noi, Mentana. Mentana. Beh, noi, telegiornali, noi sì, sì. Appoggiando la mozione Mentana, ma queste sono informazioni di servizio, quindi ci stanno. Questa settimana sui social, sai cosa è stato molto di tendenza? Ma hai mai detto questa cosa? Ma tu dici che tutti hanno parlato di questo. Ma certo che hanno parlato tutti di questa cosa qua. Ma io non me ne sono accorto, per fortuna, però... Ma perché seguiamo delle persone diverse su Twitter, perché anche magari su Twitter Facebook... Ne parlavano. Ma tutti, tutte... Ah. Tutte. Allora, questa settimana si è conclusa questa fiction fondamentale. Imperdibile. Anche io mi perché, sono perso. Anche perché più estreme sono, più la rete vibra. Gabriel Garco. Sì. Che piace sempre molto in rete. Qual è stato il problema di questa fiction? Che è stata creata molta attesa per una scena tagliata. E quindi se tu annunci prima che ci sarà una scena tagliata... Tutti si incuriosiscono, soprattutto... Vanno alla ricerca della versione non tagliata. Ma noi, per spiegare cosa e come è stato tagliato, io direi che riguardiamo insieme, come ne hanno parlato Luciana Littizzetto e Fabio Fazio, a che tempo che fa così. Però. Luciana Littizzetto ha raccontato di questa scena tagliata. E Gabriel Garco, è presente? Sì, Garcolone. Ragazzo, sì. Che fa il protagonista... Di una fiction su Rodolfo Valentino. Nella prima puntata in questa fiction c'è una scena che vogliono tagliare. Perché? Chiedimelo perché. Ah, perché sarà lunga? No, Perché sarà lunga, forse, però. Allora la scena è una scena di nudo integrale. È per quello allora. E quando dico integrale, dico integrale con tutti i cereali. Ho capito, sì, ho capito. I cereali, ma. Insomma, è partito il grande torrone per il taglio del torrone. Eccola qua, insomma, era un nudo integrale. Ovviamente questa settimana in rete tutti a parlare della, e soprattutto si è vista la scena tagliata. Ah, si è vista, l'hanno trasmessa? No, in rete, sì, è sbucata. Sì, e come era questa scena? Di profilo. No, ma non possiamo cambiare, voltare. No, vabbè, ma di non questo parla. No, l'abbiamo già dato. Di questo dato. Parlava la. Parliamo la, delle coda ai caselli. Parliamo di non so. Non inerpicarti verso sentieri non so che non dire, sai dove ci di porteranno. Cioè. Allora, invece di parlare di serie italiane che tu non guardi, parliamo un po' di serie americane. Sì, ok, parliamo di serie americane. Ma tu, Daniele, le guardi una puntata alla volta? Allora, io un anno e mezzo fa ho fatto un po' di. Come si chiama? Binge watching, che è una cosa, mamma, che si può fare tranquilla, non c'entra con prima gara con le scene italiane. Dunque, praticamente l'ho fatto con alcune serie, no? Di vedere, tu compri perché si può, sì, ecco, perché compri, poi sembra sempre che noi istighiamo se a fare cose soprattutto illegali. È più facile. Mm-hmm. Tu compri delle cose, compri tutte in fila, poi dopo metti che una sera, che ne so, sei ammalato, c'hai l'influenza e ne vedi 13 di fila. E devo dire che è bello, rende. Il grande interrogativo che adesso mi pongo è intellettuale, emotivo, etico anche, è nei confronti di House of Cards, perché House of Cards viene mandato in onda su Sky Atlantic come veniva mandato in onda Dallas 20 anni fa, cioè c'è l'appuntamento fisso il mercoledì sera. E di solito le TV fanno così, Me lo ricordo perché i miei genitori mi avevano dato la possibilità di andare a letto mezz'ora dopo. Che bambino degli anni 80. Molto. Ecco, meglio vederle tutte assieme di fila o una alla volta? È un interrogativo che così mi resta dentro e mi arrovella. Chiamerei in causa il nostro critico preferito di cultura pop e di fenomenologia dei media. L'hai detto in un modo che sembra noioso. Invece no, invece è il nostro preferito. Potete leggerlo in rete, basta cercare MB e MB lo trovate in tutte le salse. Sì. Trovate il blog, trovate il suo account di Twitter. Lo leggete anche su tante riviste come Wired. Ultimamente lo leggo spesso su Wired, però anche sul Foglio, insomma in tanti posti. Buonasera Michele Boroni. Buonasera a voi, buon pomeriggio a tutti, buonasera. Michele, binge watching, noi conoscevamo soprattutto dal Regno Unito il binge drinking, cioè questa da lì arriva questa pessima abitudine dei ragazzi, all'epoca solo inglesi, poi purtroppo si è un po' diffuso, non è una bella cosa, di ammazzarsi dal bere, di uscire la sera e di bere finché non ce la si fa più. E in questo modo si è passati al termine binge watching, cioè non guardare un episodio alla volta come da palinsesto della televisione tradizionale, ma tutto insieme. E questa è insomma un po' la tendenza in rete, Michele. Assolutamente, che si può tradurre in italiano come bulimia, in caso della bulimia di drink, nel caso degli adolescenti inglesi, in questo caso è bulimia del telespettatore di serie TV, quindi uno che non riesce a non vedere più puntate della stessa serie, come avete detto. È una tendenza quando ci sono le possibilità di farlo, appunto, in America e adesso anche in Francia e in buona parte dell'Europa, non ancora in Italia, questo è possibile ad esempio con Netflix, ma però è possibile in Italia anche con i vari servizi streaming di Sky e anche di Mediaset, o se no è possibile anche comprando i cofanetti, ecco, i cofanetti DVD. Insomma, non è ancora tutto lì. Io col Tenente Colombo l'ho fatto. Hai fatto il binge watching del Tenente Colombo? Sì, ma Tenente Colombo erano conclusive, non c'era, c'era proprio una bulimia tutta tua, nel senso. Vabbè, certo. Cioè, non volevi andare a vedere come c'era l'evoluzione? No, però sull'Unità il collega Enzo Verrenger, che ha scritto un bell'articolo su questo fenomeno, dice che il Tenente Colombo è uno dei più binge watchati. E comunque vorrei dire agli ascoltatori che Daniele Bellasio si è ritagliato la pagina cartacea dell'Unità cartacea. Parliamo di rete, ma l'Unità cosa c'entra? È un giornalista vecchio stampo, insomma, della vecchia guardia. Io però vorrei ascoltare come uno youtuber, ma ormai non solo youtuber, ma è una vera star, non solo della rete, Frank Matano ha parlato del binge watching. Frank Matano. Frank, basta con quella serie, domani è l'esame. Ultimo episodio e vado a dormire. Frank, sono le 9, fra 10 minuti è l'esame. Ma te non ho studiato niente, ammazzami ora. Ammazzami ora, e porge il martello all'amico, non ho studiato niente. Effettivamente quando c'è una serie di quelle con una certa evoluzione che ti prendono, non riesci a vederne un... è un po' la morte del palinsesto tradizionale. Volevo finire di dire una cosa, se mi è possibile, sul binge watching, perché in realtà un antropologo culturale, tale Grant McCracken, ha intervistato i telespettatori di serie TV compulsivi, appunto. Ha intervistato gli intervistatori, i telespettatori di serie TV la grande comunità, e ha visto che il 76% degli intervistati ha rivelato che il binge watching rappresenta per loro un modo per evadere dalla routine quotidiana. Quindi certo. Questo in qualche modo, in un mondo in cui le nostre interazioni sociali, che sono ormai limitate ai 140 caratteri di Twitter, il cervello invece è ancora progettato per apprezzare i lunghi archi narrativi che compongono infatti le nuove serie televisive. Quindi il binge watching contrasta questa realtà frammentata di comunicazione e di visione del mondo che invece ci danno i social network. Questo antropologo l'ha interpretata così, da un punto di vista fenomenologico. Anche perché non lo puoi usare il social network mentre stai facendo binge watching, perché sennò sei accusato di spoilerare. Michele, devi sapere che una volta hanno spoilerato, cos'è che era, Anna Karenina? Hanno spoilerato Anna Karenina. Capisci che è gravissima, è stato questa. Un dramma. Michele, cosa stai scoprendo adesso di nuovo? Allora, dall'America sono uscite delle nuove serie, sicuramente la più interessante è Fargo, che è in pratica tratta, il plot è tratto dal famoso film dei fratelli Coen, che peraltro producono anche questa serie di FX Canada, e quindi si svolge nello stesso paesino del Nord America al confine col Canada, dove ci sono dei personaggi abbastanza bizzarri, tra il noir e il surreal comico. Molto bello, molto bello. Io ne ho visto un episodio, sono andata a dormire e non mi sono più addormentata, perché è molto bello, ma insomma è bello tosto. Noi abbiamo parlato ultimamente molto del lancio di Sky Atlantic, però sì. In Italia mi dicevi che sta succedendo un fenomeno un po' particolare sotto questo punto di vista. Sì, che ancora è presto per dare dei giudizi definitivi, però dopo il grande battage pubblicitario che Sky ha fatto per questo canale Sky Atlantic, che ricordiamolo è un canale di Sky dedicato esclusivamente a serie TV americane in prima visione. Quindi dopo questo grande battage pubblicitario che è stato fatto all'interno ovviamente dell'utente Sky, del telespettatore Sky, uno si aspettava una grande performance dal punto di vista di ascolti. In realtà invece nella prima settimana il canale ha totalizzato soltanto lo 0,65% in daytime e l'1% in prima serata. In pratica all'interno del bouquet Sky è stato soltanto il quinto canale più visto, quindi probabilmente è ancora presto per dare dei giudizi definitivi, però credo che a Sky si aspettassero qualcosa di più. A volte succede che quando c'è una offerta gigantesca di nuove serie, di novità, eccetera, anche un utente, un telespettatore smaliziato e maturo, come potrebbe essere quello di Sky, magari va un po' in confusione, quindi preferisce continuare a vedere le serie che conosce già o i canali già conosciuti. E poi i nuovi canali devono conquistarsi lo spazio nel telecomando, cioè l'attenzione del telespettatore nel telecomando. O forse ancora la gente si sta riempiendo il registratore. E poi li avete già visti tutti. O la gente si sta riempiendo il videoregistratore, cioè il MySky, e le vedrà in un secondo momento facendo il binge watching, o quello che dice la rete non è sempre quello che succede, oppure, e adesso qua lo dico, gli appassionati le hanno già scaricate illegalmente, ma non l'ho detto. No, illegalmente, diciamo che andate spesso in America. Ok, ecco, ma poi questa viaggiate seconda molto. Persona plurale, usiamo la terza, viaggiano, fermo, fanno, essi coloro. Essi. Michele, io avrei altre tantissime cose da chiederti, però sul il fonte nostro... dei bagni? Ah sì, perché ha fatto una cosa bellissima l'anno scorso, tutte le insegne dei bagni della Tosca, no, è una cosa straordinaria, ma io direi che richiamiamo Michele Boroni, perché per questa puntata il nostro tempo è concluso per questo blocco, perché dobbiamo interromperci per qualche minuto. Michele, ti richiamiamo anche perché vogliamo sapere come vanno i font dei numeri civici, che è il nuovo progetto di MB in rete. Un nuovo binge font. Straordinario, poi ne twittiamo qualcuno. Grazie, a presto Michele Boroni. Grazie, buonasera. Buon pomeriggio, buonasera a tutti. RadioTube. Rieccoci insieme per la seconda parte del nostro RadioTube, come sempre il perdibile, l'imperdibile, l'imperdibilissimo della settimana tra TV, web TV, social TV. Quindi adesso abbiamo parlato di telegiornali e della grande lezione di Mentana su cosa non si deve dire nei TG, non si deve, basta parlare di, cioè, quantomeno non Caselpa, tutti gli anni nelle stesse abbiamo già servizi. Ecco, quei servizi li abbiamo già sentiti. Poi abbiamo parlato di binge watching, questo fenomeno interessantissimo, abbuffata di serie TV, e poi ne parliamo in rete, quindi tout se tient. E poi adesso volevamo dopo aver dato @MartaCagnola, @DiBellasio, anche l'hashtag RadioTube, e aver ricordato il podcast, perché nella seconda metà lo devo sempre rifare, giusto? Ma sei straordinario. Allora, io so che po' ti manca il fatto che in questa puntata non parleremo di calcio. Ma sì, però ne abbiamo parlato tanto. Più e che soprattutto, sai quanto ne parleremo nei prossimi mesi? Sì, perché facciamo anche i mondiali. Ma non lo so se facciamo, non siamo, so se arriviamo Cassano, vivi ai mondiali. Non si sa se siamo convocati, tutti convocati. Sì, poi vabbè, vediamo se stacchiamo il biglietto per come il Brasile. Cassano, mi piace come Cassano. Sai chi già ha vinto i mondiali? Chi è che ha vinto? Allora, uno dei video più visti della settimana in rete, oltre un milione e mezzo di visualizzazioni, piace tanto, sai? Ma piace il video, ma non tanto la canzone, non lo so, ma non possiamo non dedicarci alle polemiche in rete, per forza, ci ma poi le canzoni dei mondiali sono sempre criticate, è un po' come dopo Notti Magiche, non è che ancora rimpiangiamo. Chi era Toschi Laci? Era Italia 90, erano Gianna Nannini e Edoardo Bennato. I calciatori. Perfetto. I Negramaro. Che sono bravi e che hanno deciso di riproporre, l'avevano già fatto con Meraviglioso, questa volta hanno riproposto. Ah, è un remake. È un remake, eccolo qua. Te la ricordi? Ma l'ho sentita tantissimo in radio. Non avevo collegato che questo remake di Un amore così grande, esatto, giusto, fosse anche l'inno dei mondiali. L'hanno presentato a Coverciano. Vedi che venendo in trasmissione imparo Quante cose di quelle che ne... Beh, insomma, i Negramaro hanno deciso di rinverdire Un amore così grande. Vabbè, allora, abbiamo fatto già la scorsa settimana, per non violare la par condicio, abbiamo fatto un blocco questa tecnica di unire pattinando calcio, sul ghiaccio, parlando calcio solo di campionato. Politica. Io a un certo punto mi tremavano anche... Allora, questa volta parliamo... Tremava il garante. Mamma mia, la paura. Dai. Io vorrei però parlare di un dato, di una serie di dati che peraltro mi hai segnalato tu, caro Daniele. Ogni tanto. No, ma in questo, guarda, tu sei una fonte preziosissima. Cioè, in un anno la quantità dei video visti in rete è aumentata, nel mondo è aumentata del 50%. Cioè, in un anno del 50%. Esatto. Ma è straordinario. Tieni conto che abbiamo iniziato noi due, quindi abbiamo contribuito a questo dato, ma a parte questo comunque, che facciamo finta che non l'abbia detto, è a una velocità mostruosa. Secondo me quindi tutto questo anche, io adesso lo dico, io mi lancio in questa considerazione, ha anche un influsso sulla politica, sai. Ha un influsso. Secondo me sì. Non diciamo quale, ma uno ce l'ha generico. Quindi, secondo me, anche in questa puntata di RadioTube dobbiamo parlare un po' di politica. Esatto. Senza esprimere pareri, opinioni e né tantomeno previsioni. E lo facciamo? E lo facciamo parlando di dati e di analisi. Lo facciamo con lo strategist di Blogmeter, ma anche amministratore, re e proprietario di Vincos.it, Vincenzo Cosenza. Buonasera Vincenzo. Buonasera, ciao. Beh, allora, al di là della battuta spiritosa, il fatto che in un solo anno sia raddoppiato il numero dei video visti online nel mondo, cioè in un anno raddoppiato, è un aspetto del quale non si può non tenere conto. Che cosa sta succedendo, Vincenzo? Ma sì, sicuramente questa crescita si lega molto al fatto che si aumenta la banda, la connessione, quindi le possibilità di connessione in rete, ma anche l'utilizzo di internet da dispositivo mobile, quindi siamo più avvezzi a utilizzare, a vedere video proprio stando in mobilità. Questo è un elemento sicuramente nuovo del quale i politici non possono fare a meno nelle prossime elezioni e in futuro, anche se mi sembra di vedere che invece sottoutilizzino, diciamo, i canali video per le loro attività. Ecco qua, allora, che cosa usano soprattutto i politici? Perché i giornalisti, anche noi lo facciamo, citano sempre Twitter, ed è una cosa che ormai, però probabilmente, non so, ti chiedo se invece, visto che alla fine è ancora più diffuso Facebook, se usano, quanto usano Facebook, quanto vale la pena utilizzare l'uno o l'altro, come si comportano i politici italiani? Beh, usano entrambi, certo, ci sono anche parecchie cose che li differenziano. Alcuni preferiscono più utilizzare Facebook perché sanno che con Facebook possono raggiungere un numero più elevato di persone, parliamo di 26 milioni di italiani che usano Facebook almeno una volta al mese. Altri invece preferiscono utilizzare Twitter per andare a colpire più che altro i giornalisti, che poi fanno da catapulta dei loro messaggi in TV o sulla carta stampata, quindi strategie differenziate. Quindi alla fine i giornalisti sono lo strumento, cioè sì, ci illudiamo, ma invece... Beh, per fortuna sì. Anche, siamo un po' certo. Meglio. Devo dire che Facebook, nella contestata, come dire, revisione grafica ultima avvenuta, dove molti hanno scritto, ma poi dopo torna quello di prima, ha molto sposato l'aspetto video. Cioè a me pare che ormai la timeline di Facebook si sia trasformata in una ottima esposizione dal punto di vista dei video, e quindi Twitter sta probabilmente andando, non lo so, immagino, verso un'altra direzione. Anche perché, no, quando tu apri Facebook ormai i video partono in automatico, cioè sì, è disorientante, però bisogna togliere l'audio. Va bene. Vincenzo, sta cambiando qualcosa da questo punto di vista? Beh sì, io quello che noto soprattutto da parte di Twitter, siccome il grande problema di Twitter è il fatto di poter riuscire a coinvolgere le persone per più tempo possibile, Twitter sta cambiando in una modalità molto più multimediale, quindi il nuovo redesign predilige molto i video, le foto sempre più grandi e va un po' verso Facebook, ma più che verso Facebook, verso la volontà di raccogliere un pubblico più generalista, più vasto. Twitter in Italia non si hanno dati ufficiali, ma non ha più di 4 milioni. Cioè non solo i giornalisti affini, diciamo. Sì, giornalisti e parenti. Che ti controlla. Quindi l'obiettivo è quello di chiaramente catturare più persone possibile, interessare più persone possibile, e questo lo si fa soprattutto proponendo dei contenuti video e fotografici, quindi visivi, perché chiaramente aumentano l'engagement. A mio parere Twitter deve stare attento su questo fronte, perché mentre Facebook è pensato per il nostro essere privato, diciamo così, più divertente, Twitter nasce e la sua identità è sempre stata quella invece più sul versante informazione. Certo. Si può correre il rischio mischiando le due cose, non trovi? Certo, è un rischio di perdere un po' la natura iniziale, la peculiarità tipica di Twitter, però purtroppo quella peculiarità probabilmente non porta i guadagni sperati, soprattutto ora che Twitter deve dar conto degli azionisti essendo quotata in borsa. Io però non sono ancora passata al profilo nuovo perché mi dice mostra il tuo lato migliore e non l'ho ancora deciso. Perché a me non l'ha chiesto? Non lo so, fatti una domanda e datti una risposta. Non ce l'ho forse. Allora, adesso però vorrei tornare alla politica. Abbiamo parlato di altri schieramenti nelle scorse puntate. Questa volta il video che vi vogliamo proporre è però relativo al Movimento 5 Stelle. Sì. Perché loro questa settimana hanno fatto qualcosa di interessante che riguarda la rete, che riguarda i video. Ne guardiamo un pezzettino, è proprio una sitcom. Buongiorno. Buongiorno. Vabbè, grazie. Subito. No, vabbè, chiamatemi Giorgio. Grazie Giorgio. È finita la sospensione? Finita, siamo rientrati in aula. Alla fine ci ha permesso di fare quello che più ci piace, ossia girare l'Italia da nord a sud, incontrare migliaia di cittadini in tutte le piazze, informarli e soprattutto rispondere alle loro domande. Beh, insomma, sono alcuni degli aspetti tipici della campagna del Movimento 5 Stelle. Alla Buvette, sì, è proprio una sitcom, sembra un po' un camera caffè ed è, secondo me, dal punto di vista della comunicazione, un fenomeno interessante. Vincenzo? Sì, no, assolutamente. È il tentativo di sperimentare linguaggi nuovi e quindi di arrivare ad un pubblico che magari non si informa, non ha il tempo di informarsi con molta assiduità e quindi magari può recepire invece queste pillole di informazione. Qui il rischio, come al solito, è quello di magari incorrere in una sorta di superficialità, di trattare gli argomenti in maniera un po' più superficiale. Quindi questo è un rischio però che corrono, come dire, tutti gli schieramenti quando hanno a che fare con gli strumenti, con i social media, soprattutto con quelli che come YouTube che utilizza il video, come Twitter che utilizza la brevità, non permettono poi di affrontare molto spesso dei fenomeni complessi. Io guardavo polismeter.it che tu ci hai segnalato, sì. C'è un'analisi sui politici più citati in rete non e li sugli puoi nominare, sì, insomma, sugli hashtag più citati in rete. Diciamo che il Presidente del Consiglio ha fatto una Twitter intervista, per esempio, qui, questa settimana. Ecco, quindi alla fine come si possono leggere i dati relativi? Cioè, è un discorso che poi rimane all'interno della rete? Diventa reale, esce dal virtuale? Esce dal virtuale. Bah, sicuramente esce perché insomma ce lo mostrano poi le prime pagine dei giornali o dei telegiornali, cioè quello che ormai avviene in rete rimbalza sicuramente poi come dire, nella realtà di tutti i giorni oltre che sui mass media. C'è sicuramente una capacità del politico di utilizzare questi strumenti che va ad aumentare questo tipo di impatto sulla società, quindi la capacità di utilizzare questi strumenti non è da sottovalutare, non basta scrivere un tweet, un post su Facebook per essere subito rilanciati ed avere un certo impatto, bisogna avere soprattutto assiduità. E quello che notavo proprio qualche giorno fa è che per esempio il Presidente del Consiglio aveva un po' smesso di utilizzare Facebook, questa cosa come dire mi sembrava un po' una mossa azzardata, visto che appunto su Facebook ci sono 26 milioni di italiani, secondo me non è uno strumento da sottovalutare. E quindi lui ti ha ascoltato e la risposta al Movimento 5 Stelle per non andare a giocare la partita del cuore, vista la polemica sulla par condicio, l'ha data su Facebook. Effettivamente dopo qualche giorno ha ricominciato a scrivere. Ha capito il tuo consiglio subliminale. Vincenzo, grazie per averci regalato un po' del tuo tempo. Noi grazie ovviamente non possiamo andare ad analizzare i singoli schieramenti. Sì, ma quello sicuramente, così possiamo parlare senza i vincoli della par condicio. Però io segnalo comunque polismeter.it perché lì ci sono anche i nomi che noi in radio non possiamo fare. Poi vabbè, Blockmeter, di cui tu sei strategist, perché ci fornisce sempre un sacco di dati utili, e poi il tuo vincos.it perché da lì noi ti rubiamo un sacco di notizie, ma non lo diciamo grazie ad alta voce. Ciao Vincenzo, grazie mille, per essere ciao stato saluta con la noi Basilicata. Ciao. Ah, che bello, sì, la Basilicata. Grazie a Vincenzo Cosenza che noi abbiamo appunto stanato in Basilicata. Tra poco però ci risentiamo dopo il traffico perché parliamo un po' come di come passa gossip il tempo, devi dire, preparati. Tra poco lo diciamo, tra poco. come vola il tempo. Ecco, scusa, quando... questo fatto del come vola invece del come passa. Non lo so perché, ma no, perché, lo... perché mi è venuto una volta, adesso mi dico sempre come vola il tempo. Però durante passa i ponti, il tempo quando sì, passa, non so, passa. Non so come mai. Questi cambiamenti, io sono abitudinario, come diceva Elio. Va lo bene. So, perché a te piacciono le cose tradizionali, allora ti accontento subito. Sì, è una vita che vuoi parlare dei reali, io ma non sì, lo so dai, perché. Ma sì, dai, da sette, dai numeri zero. Ma è bellissimo, io sono tanto appassionata. Allora, intanto, questo fine, questa settimana, la regina Betty ha compiuto gli anni e li ha festeggiati 18. Con sì. Li ha festeggiati con una foto che ha postato sotto i social ed è straordinaria. Con scritto staff, spero. Staff lei. Come gli, beh sì, come gli i politici, no, no, me la vedo la regina che si occupa. C'è l'account di me. Fake lo della so. Regina che mi piace fake. Tantissimo. Sì. Sì, mi piace, c'è anche quello di Carlo Fake e c'è anche l'account del Big Ben. Sì. Che ogni ora rintocca. Mette, le sai tutte. Fantastico. Sei preparata. Ma questa settimana c'è stata, secondo me, l'apoteosi. Abbiamo già citato il viaggio di Kate e William, che però sì. Questa settimana hanno dato veramente il meglio. Il meglio. Io ascolterei questo pezzettino vediamo. Di un servizio che vediamo, che ho visto su YouTube. Eccolo qua. Well, this is the DJ demonstration. Let's have a listen to these fantastic talents. These fantastic talents, questi straordinari talenti, perché c'è il DJ che fa lo scratch, no? E Kate e William, che sono... Io li adoro perché hanno quest'aria così imbranata sempre, che provano a fare un po' di scratch. Più lui o più lei? Allora, lui è veramente imbranato, lui è autenticamente imbranato. Lei mi è piaciuta particolarmente, ma soprattutto questi commentatori dicono, ma... Lei è più disinvolta, sicuramente l'ha fatto nella sua vita passata quando faceva del clubbing, quando andava a ballare. Vabbè, non è grave andare a ballare. No, però sai che insomma, però devo dirti, lei è molto al molto fratello più... fratello di William. Ah, io lo adoro. Allora, anche. Lei è assolutamente più disinvolta di lui. Lui è tanto carino, però tanto imbranato, sì. Almeno secondo me. Io vorrei però chiamare in causa una voce autorevolissima, soprattutto una come me, twittatrice, una delle più brave in io rete, la adoro Twitter. La adoro, diciamo subito qual è il suo account di Twitter, perché Costanza RDO, perché sì. Avendo un nome e un cognome così lungo non è che ci sta tutto, non è come il mio che è piccolino, Marta Cagnola è finito, no, lei ha bisogno di molti più caratteri. Leggo prima la sua bio su Twitter. Sì, leggila. Pluridiciottenne dal cognome troppo lungo, Columbia University, Wall Street, Il Riformista, La Stampa, Corsera 27esima ora, ostenta una R francese, ama il proprio naso, e questa cosa è bellissima. Io ogni tanto scrivo dei tweet nella speranza che lei metta preferito. Sì, lo so. Perché è una sorta di rating, perché, come la Moody's di perché Twitter. Senti di aver scritto qualcosa di certo, significativo. Di divertente, o interessante. Costanza. Buonasera Costanza Rizzacasa d'Orsogna. La sellinatrice compulsiva, ciao. Allora Costanza, noi ti abbiamo subito introdotto così, ti in medias res, qua stiamo parlando dei reali inglesi. Allora, a me lei sembra, a parte che è bellissima, Daniele, è sì. Bellissima Kate, cioè, è tanto bella. Mi sembra un po' più disinvolta di lui, che è assolutamente imbranatissimo, cioè non ce la può proprio fare William. Lei è sicuramente più strategica, se vedi riflettono forse un poco come sono tra di loro Michelle e Obama. Se tu vedevi per esempio in questi giorni le foto di Michelle che bacia Obama, è sempre lei la forte, è sempre lei, come dire, in charge di tutto, lei che mette a lui la mano sul, lei mette la mano sul ginocchio di lui, ed è tutto un po' replicato quando poi vai a vedere William e Kate è molto più strategica, lui è molto più clumsy, molto più imbranato e allo stesso tempo, per esempio, vedi, lei finge di divertirsi, però riesce, per esempio, davanti al DJ set, faceva i pollici, no, alla Fonti, che la totale poppizzazione della monarchia, se vogliamo, è il doppio di Renzi con la corona in testa, e strizzava l'occhio, no, è molto così. Loro ci hanno chiaramente puntato, c'è cioè tutta una strategia dietro, molto diversa da come era Carlo e Diana, dove lei sapeva usare benissimo i media e non c'era nessuna strategia diciamo della monarchia dietro. La monarchia oggi punta su questi giovani e belli che hanno recuperato la monarchia in caso di consensi, convinta che qualsiasi cosa facciano questi riescono simpatici. Ma perché così? Perché se tu vedi anche su Twitter, noi li dissacriamo sempre, una bravissima a farlo è l'amica Esther Viola. Anche lei mi piace un sacco. Esther Viola è stato attaccato poi con l'underscore, e lei è bravissima perché crea queste caption, queste dida alle foto, e sono magistrali, li dissacriamo tutti. Di fatto però lei è bellissima, chiaramente siamo mossi da tremenda invidia, e poi guardiamo entrambi con molta tenerezza, anche noi degli anni 80, anche noi che abbiamo 30-40 anni, e la monarchia ha puntato su questo e chiaramente hanno stravinto. Io soprattutto invidia per come lei porta i vestiti, perché lei è grande. Anche quello giallo. Anche se porta le zeppe. Cioè, anche se porta. Allora, lei solo lei. Questo io non riesco a andare a dormire. Mette le zeppe. Mette le zeppe. Quindi, ma questa chiaramente avrà dei personal trainer pazzeschi. Se tu vedevi la foto dell'altro giorno, sempre a Sydney, ha dei muscolazzi delle braccia che fanno invidia a quelli di Michelle Obama. Tra le due coppie, le forti qui sono le donne. Ma forse sono le due coppie che replicano la vita reale. L'hai detto tu, non ho detto niente. Io mi faccio fotografare con le zeppe, sembra che ho i ferri da stiro sotto lì. Ma non è vero. Abbiamo parlato di scarpe. Guarda che bella maglietta che hai. Lo so, la mia maglietta Fanta. è bellissima. Senza abbiamo parlato di scarpe. C'è qualcosa di assoluta tendenza in rete. Daniele è molto spaventato. Perché leggo, ma non capisco. Allora, intanto la parodia di Peter Griffin, che si sente male di fronte a un video. Sì. Eccola qua. Peter, no! Dicono che se guardi quella cassetta, poi morirai. Sono un mucchio di balle. Pitta rosso. Pitta rosso. Allora, è la pubblicità di questa marca di scarpe fatta da Simona Ventura. Siamo tutti impazziti perché alla fine si è parlato di questa marca, nonostante lo spot sia veramente tremendo. Addirittura ne è stata fatto un remix con Madonna. Eccolo qua. Pitta. Non è bellissimo? Ma il tremendo in rete va molto. Il tremendo in rete va molto. Si porta tanto. Le scarpe, il tremendo. Costanza, io ieri... Allora, devi sapere, Daniele, che... Tra un po' esisterà un internet per le donne e un internet per gli uomini. Anche secondo comunque. Me. Anche perché ieri io e Costanza ci siamo fatte tutto uno smessaggiamento. Poi a un certo punto abbiamo cominciato a parlare di piedi e scarpe. Non ne uscivamo più. Nanni Moretti ci ha costruito un film, eh? Dovresti leggere la nostra chat, ma non possiamo, Costanza. Non possiamo. Però ti possiamo dire alcune cose. Ti possiamo dire, per esempio, che stavamo parlando delle sorte di donne che a New York si presentano dal chirurgo plastico e vogliono rifatto il piede per poter entrare nelle scarpe di design. E ci sono tantissimi tipi di chirurgia plastica al piede. C'è per esempio quello in cui si accorcia il dito del piede, che va moltissimo tra le modelle, ma c'è anche l'allungamento del dito del piede, c'è la liposuzione al piede, ma c'è anche l'ingrossamento del piede. Questa cosa che si chiama foot tuck, ti inseriscono con delle iniezioni del grasso preso da altre parti del tuo corpo nel piede e funziona un po' come i party fit, sai, quei gommini che le donne mettono quando vanno fuori. No, Daniele non lo sa, dovresti vedere la faccia. Eccetera, per aiutare, perché questi inserimenti di grasso nel piede aiuta a sopportare la pressione di questo tacco altissimo. E quindi adesso è la cosa che va di più tra la chirurgia, che chiaramente è l'ultima frontiera di un mestiere che non finisce mai, alimentato da questo nostro narcisismo cosmico che poi si declina in selfie, belfie, bikini bridge e chi più ne ha ne metta. No, cioè Daniele non starei ad ascoltarvi per ore. Tu lo sai cos'è il bikini bridge, Daniele? Ma non lo so. Mio papà gioca a bridge. No, è un'altra cosa. Ah. È un'altra cosa. E ce no, ne perché sono iniziavo tutti. A pensare che mio papà, quando diceva vado a vedere bridge... No. Quando tu... Così. Sei in bikini, cioè cosa tu succede? Sei sdraiata, sì. Il costume deve fare una sorta di ponte tra le ossa del bacino, cioè deve rimanere un po' sollevato perché vuol dire che sei magra. È lo scollamento tra il pezzetto di costume e l'anca, diciamo, no? E cioè quel buchino che però, devi avere per dimostrare che comunque hai una certa magrezza. Quest'anno c'è il Bikini Bridge. Quest'anno, lo lanciamo da qua. Hashtag Bikini Bridge RadioTube, anzi, com'è che volevi chiamarlo? Radiotubiamo è cari, vedi. Poi se tu lo dici con quella R lì, io adesso esatto. Daniele lo devo rianimare. Meno male che è finita la trasmissione. Io non lo perché... sapevo di questa R. Non lo sapevi? No, perché solo via Twitter ci parliamo. Ecco, e molto... Radiotubiamo tutti insieme. Radiotubiamo tutti assieme. Ma tutto questo è la bellissimo. La passione si sente. Tutto questo è bellissimo. Purtroppo, come passa il tempo quando ci si diverte... Però Costanza torna. Costanza la richiamiamo per forza, anche perché vogliamo tutte queste nuove tendenze. Delle quali proprio siamo ormai addicted. Grazie a Costanza Rizzacasa d'Orsogna, chiocciola Costanza RDO, perché sennò non ci stava tutto. E a presto, ti rivogliamo di nuovo a RadioTube. Ciao! Grazie tantissimo. Ciao! E noi dobbiamo salutarci perché è finita anche questa puntata. Sì. Però domani dalle 15 alle 15.30 una nuova puntata di RadioTube. Per questa puntata ringraziamo Filippo Aureggi in regia e ci ritroviamo domani, Daniele. Sì, a domani. Ciao a tutti!